Ora, quel che Wang Lung aveva fatto non si riseppe in fretta perché lui non ne parlò affatto e perché avrebbe dovuto, lui che nella sua casa era il padrone. Ma l'occhio di Cucù fu il primo ad accorgersene e vide la ragazza che scivolava fuori dalla sua corte all'alba. Allora la bloccò e si mise a ridere e i suoi occhi di vecchio falco scintillavano. «Ma bene», disse, «ecco di nuovo l'anziano signore». E nella sua stanza Wang Lung, sentendola, si allacciò rapidamente la vestaglia e uscì con un sorriso imbarazzato e mezzo orgoglioso e borbottò: «Beh, gliel'ho detto che doveva prendersi un giovane, lei ha voluto il vecchio». «Sarà una bella cosa da raccontare alla padrona», disse allora Cucù con gli occhi scintillanti di malizia. «Non so nemmeno io com'è successo», rispose lentamente Wang Lung. «Non avevo intenzione di aggiungere un'altra donna alle mie corti, ed è successo da sé. Poi, quando Cucù disse, beh, bisogna dirlo alla padrona», Wang Lung, che temeva la rabbia di Loto più di qualsiasi altra cosa, supplicò Cucù e disse ancora, «Diglielo tu se vuoi, e se riesci a evitare che si arrabbi con me, ti darò come compenso una manciata di monete». Sempre ridendo e scuotendo la testa, Cucù promise. E Wang Lung tornò alla sua corte e non ne uscì fin quando lei non fece ritorno e disse: «Bene, la cosa è stata detta ed era piuttosto arrabbiata finché non le ho ricordato che da moltissimo tempo voleva l'orologio straniero che le hai promesso e vuole un anello con rubino e ancora un altro in modo da averne uno per ciascuna mano. E vorrà ancora altre cose che le verranno in mente e una schiava che prenda il posto di Fiore di Pero e Fiore di Pero non deve andare più da lei e anche tu non devi andare da lei per un po' perché l'idea di vederti la disgusta». E Wang Lung fu pronto a promettere e disse: «Procurale quello che vuole, non bado a spese». E fu contento di non dover vedere presto Loto e comunque fin quando la sua rabbia non si fosse placata con l'esaudirsi dei suoi desideri. Rimanevano ancora i suoi tre figli e provava uno strano senso di vergogna davanti a loro per quel che aveva fatto e continuava a ripetersi: «Non sono padrone nella mia stessa casa e non posso prendere la schiava che ho comprato con il mio argento?» Ma si vergognava, pur essendo a metà orgoglioso, come chi prova ancora delle voglie e si sente un uomo mentre gli altri vedono in lui solo un nonno, e attese che i figli venissero nella sua corte. Arrivarono uno per volta, separatamente, e il secondo arrivò per primo. Una volta arrivato, parlò della campagna, del raccolto e della siccità estiva che quell'anno avrebbe ridotto a un terzo il raccolto. Ma in quei tempi Wang Lung non si curava della pioggia e della siccità, perché se il raccolto dell'anno gli portava poco, c'era l'argento avanzato dall'anno prima, e le sue corti erano piene d'argento. E i mercati del grano gli dovevano soldi e molti ne aveva prestati ad alto interesse, soldi che il secondo figlio raccoglieva per lui. E Wang Lung non guardava più per vedere com'erano i cieli sopra la sua campagna. Ma il secondo figlio continuava a parlare in quel modo e nel parlare guardava qua e là nelle stanze con occhi velati e misteriosi. E Wang Lung capì che stava cercando la ragazza per vedere se era vero quel che aveva sentito. E allora chiamò Fiore di Pero nascosta nella stanza da letto ed esclamò: «Portami il tè, bambina mia, e il tè per mio figlio». E la ragazza uscì. E il suo viso pallido e delicato era roseo come una pesca, e chinò la testa e strascicò silenziosamente intorno i piedini, e il secondo figlio la guardava come se, pur avendolo sentito, non avesse potuto crederci fino a quel momento. Ma non disse niente, solo che la campagna era messa così e cosà, e che bisognava cambiare questo o quell'affittuario alla fine dell'anno, e quell'altro perché fumava oppio e non avrebbe raccolto ciò che la campagna poteva dare. E Wang Lung chiese al figlio come stavano i suoi figli e lui rispose che avevano la tosse dei 100 giorni, ma era una cosa da poco adesso che faceva caldo. Conversarono così, bevendo il tè, e il secondo figlio ebbe modo di guardare a sazietà e se ne andò, e Wang Lung si liberò del secondo figlio. Poi, prima ancora che metà della giornata fosse trascorsa, arrivò il primo figlio, alto e avvenente e orgoglioso degli anni della propria maturità. E Wang Lung aveva paura del suo orgoglio e non chiamò subito Fiore di Pero, ma aspettò, fumando la pipa. Il figlio maggiore se ne stava seduto rigido con il suo orgoglio e la sua dignità e si informò alla maniera appropriata sulla salute del padre e su come si sentisse. Wang Lung rispose svelto e tranquillo che stava bene e guardando il figlio la sua paura lo abbandonò. Vide infatti il figlio maggiore per quello che era, grande e grosso di corporatura, ma aveva paura della propria moglie di città e soprattutto aveva paura di non sembrare nobile per nascita. E il vigore della campagna, forte in Wang Lung, anche quando non se ne rendeva conto, si gonfiò in lui e smise, di preoccuparsi del figlio maggiore, del suo aspetto così per bene, e all'improvviso chiamò tranquillamente Fiore di Pero. Vieni, bambina mia, e versa il tè a quest'altro mio figlio. Questa volta lei uscì, molto fredda e silenziosa, e il piccolo viso ovale era bianco come il fiore da cui prendeva il nome. Abbassò gli occhi nell'entrare e prese a muoversi con calma, facendo solo quel che le era stato detto. Poi uscì rapidamente. Mentre la ragazza versava il tè, i due uomini erano rimasti in silenzio, ma quando fu uscita e sollevarono le ciotole, Wang Lung guardò dritto negli occhi il figlio, cogliendovi un disarmato sguardo di ammirazione, ed era lo sguardo di un uomo che ne invidia segretamente un altro. Poi bevvero il loro tè. E alla fine il figlio disse con voce roca e un po' spezzata: «Non credevo che fosse così». «Perché no?» ribatté tranquillo Wang Lung. «È la mia casa». Il figlio fece allora un sospiro e dopo un po' rispose: «Sei ricco e puoi fare quello che vuoi». E sospirò ancora e disse: «Beh, immagino che una non sia sempre sufficiente per un uomo, e arriva un giorno...» Si interruppe, ma nel suo sguardo c'era la sfumatura di un uomo che ne invidia un altro contro la sua volontà. E Wang Lung guardò e rise dentro di sé, perché conosceva bene la natura lasciva del figlio maggiore e sapeva che la moglie di città, così per bene, non l'avrebbe tenuto a freno per sempre, e un giorno l'uomo sarebbe uscito di nuovo. Il figlio maggiore non disse altro, ma se ne andò come uno a cui sia stato messo in mente un nuovo pensiero, e Wang rimase a fumare la pipa, orgoglioso di se stesso perché da vecchio aveva fatto quel che voleva. Era già scesa la sera quando arrivò il terzo figlio, e anche lui arrivò da solo. Wang Lung stava nella stanza centrale della corte e le candele rosse erano accese sul tavolo. Fumava la sua pipa e Fiore di Pero sedeva in silenzio al lato opposto del tavolo, le mani morbidamente incrociate, in grembo. Ogni tanto guardava Wang Lung direttamente, senza civetteria, come una bambina, e lui la guardava ed era orgoglioso di quel che aveva fatto. Poi all'improvviso, dal buio della corte, spuntò il figlio minore e se lo ritrovò davanti. Nessuno l'aveva visto entrare. Aveva una strana postura, quasi acquattato, e senza che vi avesse rivolto il pensiero, Wang Lung fu assalito dal lampo del ricordo di una pantera che gli uomini del villaggio una volta avevano portato dalle colline dove l'avevano catturata, e la bestia era legata, ma acquattata come se fosse pronta a balzare. Gli occhi le luccicavano, e anche gli occhi del ragazzo luccicavano fissi sulla faccia del padre. E quelle sue sopracciglia, troppo pesanti e nere per la sua giovane età, erano una linea feroce e nera sopra gli occhi. Rimase così e alla fine disse a voce bassa e agitata: «Adesso parto soldato, parto soldato». Tuttavia non guardò la ragazza, ma solamente il padre. E Wang Lung, che non aveva avuto paura del figlio maggiore e del secondo, ne ebbe improvvisamente di quel figlio a cui fin dalla nascita aveva badato così poco. E Wang Lung cominciò a balbettare e a mormorare, e avrebbe parlato, ma quando tolse di bocca la pipa non uscì nessun suono e guardò fisso il figlio. E il ragazzo ripeté più volte: «Adesso parto, adesso parto». All'improvviso si voltò e lanciò uno sguardo alla ragazza, e lei lo ricambiò ritraendosi e si portò le mani al viso in modo da non vederlo. Allora il giovane distolse gli occhi da lei e in un balzo uscì dalla stanza. Wang Lung guardò il quadrato scuro della porta aperta nella notte nera d'estate, ma lui non c'era già più e tutto era immerso nel silenzio. Alla fine si voltò verso la ragazza e disse in tono umile e gentile, senza più orgoglio e con una grande tristezza: «Sono troppo vecchio per te, tesoro mio, lo so bene, sono un uomo vecchio, vecchio». Ma la ragazza tolse le mani dal viso ed esclamò, in tono più vibrante di quanto lui l'avesse mai sentita esclamare: «I giovani sono così crudeli, io preferisco i vecchi». Il giorno dopo, quando sorse il mattino, il figlio minore di Wang Lung se n'era andato e nessuno sapeva in quale direzione. 34. Poi, come l'autunno si infiamma di un falso calore estivo prima di morire nell'inverno, così accadde il rapido amore di Wang Lung per Fiore di Pero. Il suo breve calore trascorse e la passione in lui smorì. Lei voleva bene, ma senza passione. Dopo che la fiamma l'ebbe lasciato, all'improvviso lo invase il freddo dell'età e divenne un vecchio. Eppure le voleva bene e saperla nella sua corte era per lui un conforto e lei lo serviva fedelmente con una pazienza superiore ai suoi anni e lui era sempre di una gentilezza perfetta con lei e il suo amore era sempre più l'amore di un padre per una figlia. Per rispetto a lui, Fiore di Pero era gentile persino con la sua scioccherella e per lui questo era un conforto, tanto che un giorno le disse quel che aveva avuto in mente da tempo. Wang Lung aveva pensato molte volte a quel che sarebbe successo alla sua scioccherella dopo la sua morte, quando non ci sarebbe stato nessuno a cui importasse qualcosa se lei era viva o moriva di fame, e aveva comprato quindi alla bottega delle medicine un pacchettino bianco contenente un veleno e si era detto che l'avrebbe dato alla sua scioccherella quando avesse visto avvicinarsi la propria morte. Eppure temeva questo più dell'ora della propria morte e si sentì confortato nel vedere la fedeltà di Fiore di Pero. Così un giorno la chiamò a sé e disse: «Non c'è nessuno oltre a te a cui io posso lasciare la mia scioccherella quando sarò morto, e lei continuerà a vivere dopo di me perché la sua mente non ha ansie e niente potrà ucciderla e nessuna ansia preoccuparla. E so bene che quando io non ci sarò più, nessuno si prenderà la pena di darle da mangiare o di toglierla dalla pioggia e dal freddo dell'inverno e di metterla sotto il sole dell'estate, e la manderanno forse fuori a vagare per le strade. Questa povera creatura che per tutta la sua vita è stata curata da sua madre e da suo padre. Qui in questo pacchetto c'è la porta per la sua salvezza e quando morirò, dopo che sarò morto, dovrai mescolarne il contenuto nel suo riso e farglielo mangiare in modo che possa seguirmi dove io sarò e così sarò tranquillo». Ma Fiore di Pero si ritrasse vedendo la cosa che lui teneva in mano e disse alla sua maniera delicata: «Non sono capace di uccidere un insetto. E come potrei prendere questa vita? No, mio signore, ma mi prenderò cura di lei, perché tu sei stato buono con me, più buono di chiunque altro nella mia vita, e in verità l'unico buono». Wang Lung avrebbe potuto piangere a quelle parole, perché nessuno l'aveva mai ricompensato così nella vita, e il suo cuore si strinse a lei e disse: «Prendilo lo stesso, bambina mia, perché non mi fido di nessuno più che di te, ma anche tu dovrai morire un giorno. Anche se non riesco a dirlo, e dopo di te non c'è nessuno. No, nessuno, e so bene che le mogli dei miei figli sono troppo impegnate con i loro bambini e le loro liti, e i miei figli sono uomini e non sanno pensare a queste cose». Comprendendo ora il significato delle sue parole, Fiore di Pero prese il pacchetto e non disse altro, e Wang Lung si fidava di lei e si sentì sollevato dalla preoccupazione per il destino della sua scioccherella. A questo punto, Wang Lung si ritirò sempre di più nella sua vecchiaia, passava molto tempo senza vedere nessuno all'infuori delle due creature nelle sue corti, la sua scioccherella e Fiore di Pero. A volte si riscuoteva un po' e guardava preoccupato Fiore di Pero e diceva: «È una vita troppo tranquilla per te, bambina mia». Ma lei rispondeva, sempre gentilmente e con profonda gratitudine: «È sicura e tranquilla». E a volte le diceva: «Sono troppo vecchio per te, il mio fuoco è cenere». Ma lei rispondeva sempre con profonda riconoscenza: «Tu sei buono con me e altro non desidero in un uomo». Una volta, dopo che ebbe parlato così, Wang Lung provò curiosità e le chiese: «Cos'è stato che da bambina ti ha fatto venire tanta paura degli uomini?» E in attesa di una risposta la guardò e vide un grande terrore nei suoi occhi che lei si affrettò a coprire con le mani, sussurrando: «Odio tutti gli uomini, tranne te. Ho odiato ogni uomo, anche mio padre che mi ha venduta. Da loro ho sentito solo cose terribili e li odio tutti». Allora lui disse stupito: «Credevo che tu avessi vissuto bene e tranquilla nelle mie corti». «Provo solo ribrezzo», disse lei voltando il capo, «provo solo ribrezzo e li odio tutti gli uomini giovani». Non volle dire altro e Wang Lung si mise a riflettere. Non capiva se Loto le avesse raccontato storie della propria vita e l'avesse minacciata, o se Cucù l'avesse spaventata con qualcosa di sconcio, o se segretamente le fosse capitato qualcosa che non voleva raccontargli o chissà cos'altro. Ma sospirò e smise di fare domande perché più di tutto adesso voleva pace e voleva solo sedere nella sua corte accanto alle due creature. Così Wan Lung sedeva e giorno dopo giorno e anno dopo anno la vecchiaia lo raggiungeva e dormiva a tratti al sole come aveva fatto suo padre e si diceva che la sua vita era finita e ne era soddisfatto. A volte, ma di rado, andava nelle corti esterne e a volte, ma più di rado, Vedeva Loto che non menzionò mai la ragazza che lui si era preso, ma lo salutava cordialmente ed era troppo vecchia e soddisfatta del cibo e del vino che amava e dell'argento che le bastava chiedere per ottenerlo. Dopo tanti anni lei e Cucù sedevano insieme come amiche e non più come padrona e serva, e parlavano di questo e di quello, e soprattutto dei vecchi tempi con gli uomini, e sussurravano insieme di cose che non avrebbero detto a voce alta, e mangiavano e bevevano e dormivano, e poi si riprendevano per spettegolare prima di mangiare e bere un'altra volta. E quando Wang Lung, cosa che capitava molto di rado, andava nelle corti dei suoi figli, loro lo trattavano con cortesia e correvano a prendergli il tè, e lui chiedeva di vedere l'ultimo figlio e lo chiedeva molte volte perché dimenticava facilmente. Quanti nipoti ho adesso? E uno era pronto a rispondergli: 11 figli e 8 figli hanno fra loro i tuoi figli. E lui ridacchiava, ribattendo: ne aggiungo 2 ogni anno e ne saprò il numero, è così? Poi restava a sedere un po' e guardava i bambini che si radunavano intorno a lui per osservarlo. I nipoti erano ormai alti e lui li guardava cercando di capire come fossero e mormorava fra sé: quello assomiglia al suo bisnonno. Ed ecco là un piccolo mercante Liu, e questo sono io da giovane. E chiedeva loro: andate a scuola? Sì, nonno, rispondevano in coro sparso. Allora lui diceva ancora: e studiate i 4 libri? A quel punto loro ridevano con chiaro e giovane scherno di quell'uomo così vecchio, dicendo: no, nonno, nessuno studia più i 4 libri dopo la rivoluzione. E lui, meditabondo: sì, ho sentito parlare di una rivoluzione, ma ho avuto troppo da fare nella vita per curarmene. C'era sempre la campagna. Ma a quelle parole i ragazzini ridacchiavano e alla fine Wang Lung si alzava, sentendosi solo un ospite nelle corti dei suoi figli. Poi, dopo un po', non andò più a trovare i suoi figli. Una volta chiese, per esempio, a Cucù: e le mie nuore hanno fatto la pace dopo tutti questi anni? E Cucù sputò a terra e disse: quelle sono in pace come 2 gatti che si guardano di traverso. Ma il figlio maggiore è stanco dei lamenti della moglie per qualsiasi cosa. È una davvero troppo per bene e parla sempre di quello che faceva nella casa del padre ed è capace di sfibrare un uomo. Corre voce che lui se ne stia prendendo un'altra. Va spesso nelle case da te. Ah sì? Disse Wang Lung. Ma quando poi ci pensava, il suo interesse per la faccenda calava, e prima che potesse rendersene conto era tornato col pensiero al proprio tè e al fatto che il giovane vento di primavera colpisse freddo alle sue spalle. E un'altra volta disse a Cucù: qualcuno ha avuto mai notizie del mio figlio più piccolo? Dove è stato tutto questo tempo? E Cucù rispose, perché non c'era niente che non conoscesse in quelle corti: beh, lettere non ne scrive, ma ogni tanto arriva qualcuno dal sud e corre voce che sia un ufficiale militare, abbastanza importante in una cosa che là chiamano rivoluzione, ma cosa sia non lo so, forse qualche genere di commercio. E di nuovo Wang Lung disse: ah sì? E ci avrebbe pensato, ma stava scendendo la sera e le sue ossa erano doloranti nell'aria cruda e pungente dopo che il sole si era ritirato. La sua mente infatti andava ora dove voleva e non riusciva a tenerla fissa a lungo su nessuna cosa. E più di tutto il suo vecchio corpo aveva bisogno di cibo e tè caldo. Ma di notte, quando aveva freddo, Fiore di Pero era accanto a lui, giovane e calda, e averla nel proprio letto con il suo calore era un conforto per la sua vecchiaia. Così le primavere trascorsero e con l'avvicendarsi degli anni lui le sentiva arrivare in maniera sempre più confusa. Una cosa però gli rimase ed era l'amore per la sua campagna. Se n'era allontanato e aveva preso casa in città ed era ricco, ma le sue radici erano nella sua campagna e pur dimenticandosene per molti mesi di seguito, ogni anno all'arrivo della primavera sentiva di doverci andare e sebbene non fosse più in grado di tenere un aratro o di fare qualsiasi cosa, ma solo di vedere un altro guidare l'aratro attraverso la terra, non poteva fare a meno di andarci. A volte prendeva con sé un servo e il suo letto e dormiva di nuovo nella vecchia casa di terra e nel vecchio letto dove aveva concepito i suoi figli ed era morta Olan. Quando si svegliava all'alba usciva e tendendo le mani tremanti raccoglieva un po' di salice in fiore e qualche ramoscello di pesco in fiore che stringeva poi fra le dita per tutto il giorno. Così, un giorno di tarda primavera, quasi estate, vagò un po' per i suoi campi e arrivò al punto recintato sopra una bassa collina dove aveva seppellito i suoi morti. Appoggiandosi tremante al bastone, guardò le tombe e li ricordò tutti, uno a uno. Ora li vedeva più chiaramente dei figli che vivevano nella sua casa, più chiaramente di chiunque altro, fatta eccezione solo per la sua scioccherella e fiore di pero. E la sua mente tornò indietro di molti anni e vide tutto con chiarezza, persino la sua seconda figlioletta, di cui non aveva avuto più notizie da molto tempo, e se la vide davanti, una bella ragazza, com'era quando stava nella sua casa, le labbra sottili e rosse come una strisciolina di seta, ed era per lui come quelli che giacevano lì nella campagna. Allora si mise a riflettere e all'improvviso pensò: bene, e io sarò il prossimo. Poi entrò nel recinto e guardò con attenzione e vide il posto dove sarebbe giaciuto, sotto suo padre e suo zio, e sopra Cinghe, non lontano da Olan. Osservò il pezzetto di terra riservato a lui e vi si vide là, tornato per sempre alla sua campagna, e mormorò: devo provvedere alla bara. Il pensiero gli si era infisso saldo e doloroso nella mente. Tornò in città e mandò a chiamare il figlio maggiore e gli disse: ho da dire una cosa. Dilla, su, rispose il figlio, sono qui. Ma all'improvviso non ricordava più quel che avrebbe voluto dire. Ai suoi occhi si riempirono di lacrime perché aveva trattenuto con tanta pena il pensiero nella mente, e quello adesso scivolava caparbiamente via da lui. Chiamò allora Fiore di Pero e le disse: bambina, cos'è che volevo dire? E Fiore di Pero rispose gentilmente: dove sei stato oggi? Sono stato in campagna, rispose Wang Lung in attesa, gli occhi fissi sul suo viso. E lei chiese ancora gentilmente: in quale punto della campagna? E all'improvviso la cosa volò di nuovo nella sua mente e lui esclamò ridendo con gli occhi umidi: ecco, mi ricordo, figlio mio, ho scelto il mio posto nella terra ed è sotto mio padre e suo fratello e sopra tua madre e accanto a Ching, e vorrei vedere la mia bara prima di morire. Allora il figlio maggiore di Wang Lung esclamò, come era appropriato e giusto: non pronunciare quella parola, padre, ma farò come dici. Allora suo figlio comprò una bara intagliata, fatta con un grande tronco di un legno profumato che si usa per seppellirvi i morti e per nient'altro, perché è un legno duraturo come il ferro e più duraturo delle ossa umane. E Wang Lung ne fu confortato. E fece portare la bara nella sua stanza e ogni giorno la guardava. Poi all'improvviso ebbe un pensiero e disse: vorrei che fosse portata nella casa di terra. Là voglio vivere i miei ultimi giorni e là voglio morire. Vedendo che questo era il desiderio del suo cuore, fecero come voleva. E così Wang Lung tornò nella sua casa e nelle sue terre, lui e Fiore di Pero e la scioccherella e i servi di cui avevano bisogno. E così prese nuovamente dimora nelle sue terre e lasciò la casa in città alla famiglia che aveva fondato. La primavera passò e l'estate si trasformò nell'autunno, e sotto il caldo sole autunnale, prima dell'inverno, Wang Lung sedeva dove era stato seduto suo padre, contro il muro, e non pensava più a nulla se non al mangiare e al bere e alla sua campagna. Ma della campagna non pensava più a come sarebbe stato raccolto, o a cosa piantare o ad altro, ma aveva in mente solo la campagna per se stessa. E a volte si chinava e raccoglieva un po' di terra nella mano e poi sedeva così, stringendola, e sembrava quella terra piena di vita. E tenendola così era contento e a sprazzi pensava alla terra e alla sua buona bara che era lì, e la terra gentile lo aspettava senza fretta. I suoi figli erano rispettosi con lui quanto basta e andavano a trovarlo ogni giorno, al massimo ogni due, e gli mandavano cibo delicato, adatto alla sua età, ma lui preferiva mangiare cose sostanziose in forma di minestra, che sorseggiava come faceva un tempo suo padre. A volte si lamentava un po' dei suoi figli se non venivano ogni giorno e diceva a Fiore di Pero, che gli stava sempre accanto: ma cos'hanno tanto da fare? Ma se Fiore di Pero diceva: sono nel fiore dei loro anni e hanno molte faccende da sbrigare. Il maggiore è stato nominato ufficiale in città tra i ricchi e ha una nuova moglie, e il secondo sta mettendo su per sé un grande mercato del grano. Wang Lung lo ascoltava, la ascoltava, ma non riusciva a capire tutto questo e lo dimenticava non appena rivolgeva lo sguardo sulla sua campagna. Ma un giorno, per un po', ci vide chiaramente. Quel giorno i due figli erano venuti e, dopo averlo educatamente salutato, uscirono e camminarono attorno alla casa e poi in direzione della campagna. Wang Lung li seguì in silenzio. Loro si fermarono e lui si avvicinò lentamente. Loro non sentirono il suono dei suoi passi né quello del suo bastone sulla terra morbida. Allora Wang Lung sentì il secondo figlio dire con la sua voce affettata: «Questo campo lo vendiamo e anche quello e ci dividiamo in parti uguali i soldi. Prenderò in prestito la tua parte a un buon interesse perché adesso con la ferrovia che passa di qui posso mandare il riso fino al mare e...» Ma il vecchio sentì solo quelle parole: «Vendere le terre!» E lanciò un grido e non poté impedire alla sua voce di spezzarsi e tremare per la rabbia. «Figli! Inutili e crudeli! Vendere le terre!» disse col respiro in gola e per poco non cadde. I figli lo afferrarono e lo sostennero e lui cominciò a piangere. Allora dissero per consolarlo: «No, no, no, non venderemo mai le terre. È la fine di una famiglia quando si comincia a vendere le terre», disse con voce rotta. «Siamo venuti da là e là dobbiamo tornare e se terrete le vostre terre potrete vivere, nessuno potrà rubarvele». E il vecchio lasciò che le sue scarse lacrime si asciugassero sulle sue guance, dove lasciarono macchie salate, e si chinò e prese una manciata di suolo e lo tenne in mano e mormorò: «Se vendete le terre, sarà finita!» E i suoi due figli lo sorressero, ciascuno per un braccio, mentre lui stringeva nella mano la terra calda e morbida, e lo consolarono, ripetendo il figlio maggiore e il secondo: «Stai tranquillo, padre, stai tranquillo, le terre non saranno vendute». Ma si lanciarono uno sguardo sopra la testa del vecchio e sorrisero. Fine.